portanță tot, vizit-o pe veche tot, vizit-o pe veche tot, vizit-o pe veche tot, Eloni, Eloni, tanzi, vidi motor tanzi tu, visito pe veghe tu, tutto qui si tanzi, Eloni, Eloni, tanzi, i mesi o se fin, e tu so che tanzi, avanti so fes, avanti so fes, hai ne tu star padar, ma vindo che te tanzi, ma ho so fil che tronche, non canzi che te stelle, vidi motor tanzi tu, visito pe veghe tu, tutto qui si tanzi, Eloni, Eloni, tanzi, vidi motor tanzi tu, visi toppe veghe tu, tutto qui si tanzi, Eloni, Eloni, tanzi. Se puede parar.